Ieri ho visto due testimonianze. Ieri ho visto una scena terribile, un grosso cane lupo, ma forse era proprio un lupo, che cercava di azzannare una bambina. Questa non aveva coraggio di scappare perché sapeva che l'animale era molto più veloce di lei. Per difendersi gli ha dato prima da mordere una specie di coperta già a brandelli, poi vedendo che quello non desisteva ha cercato di distrarlo buttando lontano la palla con cui giocava. Questo per due o tre volte. Infine la bambina terrorizzava mentre l'altro aggrediva la palla, si è nascosta dietro un albero, ma invano. Non so come è andata a finire perché sono corso via a chiedere aiuto. Ieri ho visto una scena deliziosa, una bambina che giocava con un cane lupo più grosso di lei. Cercavano di strapparsi una vecchia coperta a brandelli, ma si vedeva chiaramente che il cane tirava piano per non far cadere la bambina. Poi lei ha cominciato a lanciargli una palla e quello correva a riprenderla. Questo per due o tre volte, finché la bambina si è nascosta dietro un albero e il cane per un po' ha fatto finto di non trovarla. A una certa distanza c'era anche un altro bambino che evidentemente avrebbe voluto giocare anche lui, ma qualcuno deve averlo chiamato perché a un certo punto è corso via.